al tour con Ivan Basso. Appuntamento in esclusiva su Radio 24 con il Tour de France di Ivan Basso. Oggi quinta tappa, arrivo a Cap Frel, vince Cavendish in volata, Uschov rimane in maglia gialla, ma le grandi protagoniste sono state le cadute, coinvolti anche dei big come Tom Bonen, che è rimasto indietro di 13 minuti, due cadute per fortuna senza troppe conseguenze anche per Alberto Contador. Ivan Basso in diretta su Radio 24, avevamo detto che sembrava sulla carta una tappa facile, poi tu ci avevi ricordato che non ce ne sono di tappe facili al Tour. Direi che avevi ragione tu, eh? Buonasera a tutti, è così, la prima settimana del Tour, come ho detto dal primo giorno, non era difficilissima dal punto di vista altimetrico, ma i percorsi molto nervosi e il grande agonismo che c'è in questa corsa porta tante cadute e insomma questo è chiaramente il motivo che porta la squadra a spendere tantissime energie per proteggere tutti i leader. C'è stata anche subito dopo il traguardo un po' di polemica, perché si è cercato di capire il motivo di tante cadute, chi l'ha imputato al vento ma chi anche al percorso, strade strette, tanto pubblico che quasi vi viene addosso in corsa, eh? Ma questo è il tour, io questa storia la sento da 10 anni, da quando sono venuto per la prima volta a fare questa corsa. Il problema delle tante cadute sono il grande agonismo che c'è, poi oggi era una giornata particolare, sempre aperta, quindi con parecchio vento, quindi tutti hanno paura che c'è qualche attacco e questo porta un grande stress all'interno della corsa. La cosa difficile è più che altro per i miei compagni, che devono costantemente rimanere nelle prime posizioni per così essere sempre pronti ad eventuali attacchi e per cercare di rimanere fuori dalle cadute. Quindi escludi responsabilità per l'organizzazione che ha tracciato il percorso, magari per qualche tifoso un po' troppo caloroso? Ma adesso io non ho corso molto davanti oggi, quindi le cadute non le ho viste, però può capitare, una minima distrazione di un atleta può causare la caduta poi di 10, 15, 20, l'alta velocità, gli altri che arrivano da dietro non riescono a fermarsi e quindi c'è la caduta, però io credo che il percorso era comunque sicuro, chiaramente erano strade molto strette e bisognava correre davanti, però io credo che alla fine il problema sia proprio il grande agonismo che c'è in questa gara. Domani si arriva a Lisieux dopo oltre 220 chilometri, che tappa ti aspetti? Ma sarà un'altra tappa, anche domani siamo per una parte sulla costa, quindi c'era ancora molto vento, però poco cambia, questo è il Tour, bisogna chiaramente correre sempre con la stessa attenzione fino all'ultimo giorno. E allora Ivan Basso, grazie, ti aspettiamo come ogni giorno. Grazie domani a qui a Radio 24 dopo il traguardo del Tour. Grazie, buona serata a tutti.